Il mio desiderio è quello veramente di lavorare in continuità con il lavoro che hanno fatto Giulia e Simone, che ho sempre apprezzato moltissimo. E abbiamo deciso di prendere questo libro che Simone ha scritto di recente come spunto per raccontarvi un pochino quali sono i punti che mi stanno a cuore. Nel libro tu, Simone, racconti di luoghi e personaggi che caratterizzano Milano. Sei partito sicuramente dalla tua esperienza in consiglio di municipio, insieme a quella di Anita Pirovano, che ha scritto con te il libro, che è consigliere in comune. Io una delle parole che ho trovato più ricorrenti all'interno del libro e che ho sentito più mie è quella della prossimità. Ed è proprio da questa che volevo partire. Secondo me ha un forte valore nella costruzione del benessere delle persone. Io sono cresciuta in questo quartiere, ho cercato casa in questo quartiere, ho costruito una famiglia. Questo è un quartiere che offre tantissimo, che offre il verde, che offre scuole, offre delle botteghe di qualità, dei negozi storici. Tu ne parli anche nel libro, perché parli in particolare dell'asse che c'è in Piero della Francesca e in Paolo Sarpi. Nel libro non parli solamente di una prossimità fisica, ma parli anche di una prossimità sociale, cioè di quel legame che si crea tra le persone e le rende più vicine. Volevo proprio chiederti questo, cioè qual è il valore della prossimità per te e cosa può fare la politica per avvicinare le persone? Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie tantissimo a Stefania, un ringraziamento triplo, nel senso il primo, quello più banale ma non tanto banale, quello di aver creato una serata che parla di un libro che appunto ho scritto assieme a Anita Pirovano, che è consigliera comunale uscente, neo candidata alla presidenza del municipio 9. Diciamo che il libro nasce un po' tra il serio e il faceto, ma davvero è un lavoro a cui io tengo molto e quindi ti ringrazio tanto per aver creato questo momento di discussione sul libro. L'altro ringraziamento è per il lavoro che hai fatto in questi anni da fuori dalle istituzioni, ma comunque teso al bene comune all'interno dei consigli d'istituto della scuola dei tuoi figli, all'interno di diverse realtà associative, aggregative, Massa Marmocchi e altre. E grazie, il terzo ringraziamento è per aver accettato la candidatura in consiglio municipale. Io su questo ci tengo tantissimo. Io ho partecipato in questi 10 anni dalla posizione di presidente ai lavori dal 2011 ad oggi del consiglio di municipio. E lì davvero, se c'è una cosa che dico con assoluta certezza, c'è davvero bisogno dell'impegno di persone come te, che hanno voglia di cambiare le cose, che hanno idee, che hanno entusiasmo, ed è bello che tu ti sia messa al servizio della collettività per un pezzettino e dare un pezzettino del tuo tempo, della tua vita all'impegno della cosa pubblica e dell'amministrazione pubblica, perché si fa tanto parlare a volte male dei politici, di chi si occupa della cosa pubblica, ma il modo migliore per proporre la buona politica è rimboccarsi le maniche, non lamentarsi e spendersi in prima persona, e quindi di questo ti ringrazio. Per quanto riguarda il tema della prossimità, ricorre effettivamente, vero, tantissime volte nel libro ed è declinato in tanti modi. Il perno del programma del centrosinistra che ricandida alla guida della città Beppe Sala ha proprio un tema centrale, che è quello della prossimità, quello della città a 15 minuti, che sembra uno slogan, in realtà è un tema straordinariamente concreto, cioè proprio si cala nella concretezza, cioè vuol dire che la città che vogliamo costruire, che il sindaco, che la sua squadra, che i candidati presidenti dei municipi vogliono costruire, è quello di una città dove ogni cittadino, a prescindere da dove viva, da Corso Sempione a Quarto Giaro, per usare i due perimetri estremi del municipio 8, ha a 15 minuti i servizi essenziali, lo sport, i servizi sociali, i servizi culturali, vuol dire le biblioteche, i servizi di prossimità. Già quell'idea di prossimità nel libro è richiamata molte volte. Un altro richiamo alla prossimità è quello della città che si fa prossima, del farsi prossimo. Come diceva il nostro, aspetta che mi sposto, perché sennò c'è il rimbombo, il nostro grande compianto cardinale Carlo Maria Martini, che a prescindere dalle idee, a prescindere da quello che si pensi sulla diocesi ambrosiana, il cardinale Martini rappresenta una delle più importanti figure degli intellettuali del Novecento europeo. Nell'85 fa una famosissima lettera pastorale che si chiama Il farsi prossimo, dove scrive e descrive una città a misura di sguardo che non lascia indietro nessuno. Ecco, questa è proprio, secondo me, la migliore definizione di prossimità che sia stata data, cioè una città e un'amministrazione che si mettono a misura di sguardo, che guardano la singola persona, i suoi bisogni, che non lasciano indietro nessuno. E la città post pandemia ha davvero tanto bisogno di questo tipo, di questa idea di città, una città che si fa prossima, che innanzitutto è vicina per il tema degli spostamenti, eccetera. E l'altro è una città che si fa prossima, che tende la mano e che non lascia indietro nessuno. Credo che davvero il compito di questi prossimi 5 anni siano quelli di uscire un po' dalla narrazione della nostra città, che ha una narrazione della città vincente, di una città forte, di una città che cresce. C'è questo tipo di città, c'è questo tipo di città che va mantenuta, che va fatta correre velocemente, ma Milano per i prossimi 5 anni ha tanto bisogno di equità sociale, di non lasciare indietro nessuno e di fare in modo che quando scoppierà davvero la crisi, io sono molto convinto che noi non abbiamo ancora visto tutti gli effetti che questa pandemia ci lascerà in termini di crescita delle diseguaglianze, di fragilità delle persone, l'amministrazione, chi si occupa della cosa pubblica, sia pronto a tendere la mano e a fare in modo che nessuno rimanga indietro. Quindi questo, secondo me, è il miglior modo per descrivere il tema della prossimità, che è proprio la prossimità, essere prossimi verso gli altri. Perfetto, grazie mille. Io ci tenevo proprio a parlare di questo aspetto, perché mi auguro, insomma, se sarò eletta e avrò la fortuna di lavorare con Giulia, sicuramente questo sarà un aspetto che mi piacerebbe, sul quale mi piacerebbe lavorare. E, Giulia, un tema della prossimità, una cosa che abbiamo sentito molto durante il lockdown, è anche la mancanza di un servizio sanitario strutturato. Mi sembra che comunque il Comune si stia muovendo anche in questi termini, per riuscire a favorire delle strutture sanitarie un pochino più vicine ai vari quartieri. Ok, allora rispondo subito alla tua domanda, però ci tenevo a dirti che io spero che tu possa lavorare con noi e spero che vinceremo le elezioni e che sarai parte della squadra. Ringrazio voi per essere qui. E sì, come diceva Simone, inevitabilmente nella città a 15 minuti ci sta il tema della sanità. Abbiamo visto i disastri che ha combinato Regione Lombardia, poi diciamo un po' dimenticati dalla rapidità con cui sono stati gestiti poi le vaccinazioni, e qui insomma forse non è merito di chi doveva decidere, ma era un impianto già avviato e quindi i medici e gli infermieri hanno fatto la differenza. Quindi io spero che Diciamo anche il 3-4 ottobre non ci si dimentichi di quello che è successo l'anno scorso. E se la sanità è certamente un tema regionale, noi comunque, grazie ai fondi del PNRR, come ha detto il sindaco Sala anche il 25 agosto quando è venuto in giro per i quartieri del municipio con noi, ha detto appunto che faranno grandi pressioni perché parte di questi soldi, perché vengano spesi nei tempi corretti, devono essere gestiti anche dal comune, e questo vuol dire che il comune potrà dire dove costruire questi nuovi presidi sanitari. Nel municipio 8 in particolare stiamo già avviando un progetto con Fondazione Arché per quanto riguarda Quarto Giaro, ma l'obiettivo è che nei prossimi 5 anni ogni quartiere possa avere il proprio presidio. Insieme ai presidi sanitari e temi su cui possiamo incidere maggiormente sono ovviamente la scuola, che è abbastanza facile trovare una scuola di quartiere. Non è molto facile trovare una scuola che non abbia bisogno di essere riqualificata nel proprio quartiere. Questo l'abbiamo visto in questi ormai 10 anni. Siamo partiti con un'analisi sulla presenza dell'amianto nelle scuole, che ha portato a dei progetti di abbattimento e ricostruzione di alcune. Ad oggi la scuola Viscontini è stata interamente ricostruita, su altre stiamo battendo i pugni perché i tempi si accelerino, ma non è cosa semplice, perché purtroppo ogni volta che si batte una scuola dovendo bonificare il terreno ci sono sempre questioni legate all'inquinamento, e quindi questo ritarda i tempi. Ci sono delle varianti al progetto, insomma non vi sto ad annoiare su questo, e lo stesso vale un po' per la manutenzione straordinaria che abbiamo pochi fondi a disposizione, nonostante abbiamo chiesto che venissero ripartiti tra i municipi in base al numero di plessi che un municipio ha, perché nel 2016 venivano ripartiti i fondi in maniera uguale tra i 9 municipi. Noi siamo il municipio con il maggior numero di plessi scolastici, perché ne abbiamo 87, e siamo riusciti ad ottenere una percentuale maggiore. Quindi ogni municipio, in particolare il nostro, ha circa 2 milioni di euro di manutenzione straordinaria da spendere, che sono pochissimi per il numero di plessi. Questo ci costringe a definire delle priorità, che sono priorità tecniche prevalentemente, nel senso che noi non siamo tutti ingegneri o architetti, e quindi con un confronto con i nostri tecnici dobbiamo definire queste priorità, che raramente si concentrano, anzi mai direi, su necessità legate ai bagni, che sono comunque un servizio essenziale in una scuola, perché magari ci sono delle infiltrazioni. Si citava prima la gatta velata, su questo poi magari torneremo dopo se parliamo più approfonditamente di scuole, però ecco, sulle scuole sicuramente ne abbiamo fatto un grande lavoro, soprattutto di pressione, perché il municipio non ha una competenza diretta su questo, ma deve interloquire costantemente con l'assessorato competente. Quello su cui noi abbiamo puntato più concretamente, nel senso che i fondi a disposizione sono municipali, è stato di portare lo sport e la cultura in ogni quartiere della città, e anche questo vuol dire garantire un servizio di prossimità ai cittadini. E poi una cosa che dico rispetto alla prossimità: noi come Municipio 8 abbiamo puntato sul tema delle piazze come luogo centrale dei quartieri, non tanto perché le piazze offrono un servizio concreto ai cittadini e visibile, quanto perché proprio come luogo di aggregazione permettono alle persone, una volta riqualificate e rese vivibili, di incontrarsi e di creare sinergie. E questo ci consente anche sconfiggere un po' degrado e abbandono che in alcune aree del nostro territorio sicuramente troviamo, ma a differenza del centrodestra noi crediamo davvero che è solo attraverso la riqualificazione dei luoghi che si possa rendere questi luoghi più sicuri e non con la narrazione del vigile ogni angolo della città. Ecco, quindi questi sono i temi principali. Poi ci sarebbe le case popolari, insomma sono infiniti, però il concetto di città a 15 minuti ecco, è un po' riassunto così. Che poi Giulia, tu raccontavi, l'altro giorno Giulia ha presentato il suo programma, che in realtà è un concetto che tutte le città europee stanno facendo proprie. Sì, esatto, io sono abbonata internazionale, leggo spessissimo di città che molto più, sono molto più avanti di noi da questo punto di vista. L'altro giorno leggevo di Vienna, un processo di città 15 minuti che è iniziato con la vice sindaca di allora insieme a un gruppo di donne che hanno lavorato in questo senso, e si citava proprio questo quartiere che è stato reso interamente pedonale, con diciamo, le critiche dei residenti, dei commercianti all'inizio, quando è stato presentato il progetto. Poi, dopo qualche anno, si è dimostrato che le vendite dei negozi non sono calate, ma anzi, è un po' quello che è successo, insomma, in Piazza Duomo. Cioè, oggi si potrebbe provare ad andare a chiedere ai commercianti se sarebbero favorevoli, esatto, a riaprire al traffico. Ecco, quindi probabilmente ci vuole un po' di tempo per diciamo, far digerire alcuni processi, ma inevitabilmente è la direzione giusta. Tra l'altro hai fatto già il ponte all'argomento dopo che volevo introdurre. Questo articolo internazionale parla proprio di un processo di urbanistica femminista. Io l'ho trovata veramente interessante, nel senso che fa comprendere come in realtà tutte le nostre città sono disegnate su un modello molto maschile, in cui è l'uomo ad avere alcune necessità, la donna rimane a casa. Insomma, quindi a Vienna, a Barcellona, già queste considerazioni si fanno, a Milano in Italia forse non siamo ancora a quei livelli, però sicuramente... Infatti, come dici giustamente, scusa se ti interrompo, il tragitto casa-lavoro, no, è quello che si è reso più agevole, che è tipicamente quello che fanno gli uomini, o perlomeno la maggior parte degli uomini, mentre tutto ciò che fanno le mamme, di solito comunque le donne, che parte appunto dalla cura dei figli, alla gestione dei figli dopo l'uscita dalla scuola, è qualcosa che insomma, di cui le città tante volte non hanno tenuto conto, e quindi da qui, diciamo, le rivoluzioni femministe in questo senso. Infatti, appunto, il secondo punto di cui volevo parlare con voi era la questione della mobilità, che a me sta molto a cuore. Io, come madre di 3 figli, spesso ho cercato di mettermi al loro livello, dei loro occhi, e sono stata un'accompagnatrice, come diceva Simone, per tanti anni di Massa Barmocchi. Massa Barmocchi è un'associazione che organizza degli accompagnamenti dei bambini a scuola in bicicletta, permettendogli di stare nella carreggiata. Si fa un cordone di genitori volontari e di accompagnatori con la musica, è una cosa molto, un corteo molto festoso, che ha lo scopo di far comprendere ai bambini che loro possono utilizzare quello spazio. Io noto che nelle città invece, appunto quello che dicevamo, questa visione dell'urbanistica un po' maschilista, sono i più deboli, cioè gli anziani, i bambini, non vengono mai presi in considerazione. Anche dal punto di vista della cura del verde, spessissimo il verde è puramente un ornamento, non viene visto come qualcosa che disegna un ecosistema. E nel libro tu parli, Simone, il libro è diviso in 3 sezioni, c'è una sezione sui luoghi, una sezione sulle persone e poi un glossario delle parole che da portarci, da tenerci nella nostra cassetta degli attrezzi per i prossimi 5 anni. Tu dialoghi con Gabriele Pasqui, che è un architetto e urbanista. In questa narrazione parli di trasformazione urbana e anche di transizione ecologica. Sono 2 termini di cui sentiamo moltissimo parlare, ma mi domandavo come possiamo declinarli secondo te in una città come Milano. Allora, dunque, intanto ti ringrazio che hai spiegato la struttura del libro. C'è, tra le parole nel glossario, c'è anche proprio quello della transizione ecologica, e c'è una lunga chiacchierata con Gabriele Pasqui. Per chi non lo conoscesse, è un docente del Politecnico di Milano, è stato per lungo tempo il direttore del DASTU all'interno del Politecnico, ed ha accompagnato per dei momenti anche molto importanti le diverse amministrazioni, sia l'amministrazione Pisapia che l'amministrazione Sala, in alcune delle partite più importanti sul tema dell'urbanistica, tra cui il tema sia degli scali ferroviari che della costruzione del piano di governo del territorio. Il tema della transizione ecologica è, purtroppo ultimamente, è un po' troppo, diciamo, messo a... sono una di quelle parole che vanno un po' troppo di moda e si perde un po' il senso della parola. Un po' come un'altra parola che non so se avete notato va troppo di moda è sostenibilità, perché se uno se tutti ne parlano vuol dire che poi non la fa nessuno. Io sono oggi, il titolo di Repubblica era sulla transizione ecologica, dove il ministro della transizione ecologica ha fatto questa straordinaria dichiarazione dove per lui la transizione ecologica è il nucleare di terza generazione. Ecco, per me la transizione ecologica che auguro al nostro paese, alla nostra città, non ha nulla a che vedere con il nucleare di terza generazione, è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa, cioè non è il riprendere dei modelli di sviluppo decotti, vecchi e veramente fuori tempo massimo. La transizione ecologica è partire dalle grandi città, cioè delle aree più inquinate e più malsane dell'Occidente, che sono oggi le grandi città, e dalle città consegnare alle generazioni future e alle generazioni presenti delle città dove si vive meglio, dove tutti si vive meglio. Cosa possono fare delle amministrazioni comunali? Possono fare tantissimo, e ci sono degli esempi che fa Pasqui molto interessanti. Ci sono alcune cose che noi mettiamo dentro il libro che secondo me sono di grande interesse. Faccio alcuni esempi, ne faccio due per non ammorbare e entrare nel, comunque restare nel dialogo. Allora, il tema del surriscaldamento, di quelle che vengono chiamate delle aree di calore enormi all'interno delle città, è un tema proprio concreto, ma di un concreto tale che se uno va in bicicletta la sera nella città di Milano e va da Piazza Duomo a il QT8 dove abita Giulia, passa 3 gradi diversi di temperatura, cioè passerà dal centro che è rovente e poi si arriva al QT8 dove se uno ha una bella felpettina se la mette tanto volentieri. Perché? Perché c'è il Monte Stella, perché c'è una grande area verde che abbatte il calore. Oppure come mai quando passiamo per Corso Sempione ci sono gradi in meno rispetto a delle vie limitrofe? Perché ci sono degli alberi, perché ci sono delle strade alberate. Quindi, prima cosa, il fatto di riforestare la città, cioè rimettere degli alberi su tutte le arterie principali della città, alberi ad alto fusto, e ipotizzare che tutti i grandi nuovi interventi urbani prevedano di quelli che vengono chiamati delle linee verdi, dei raggi verdi lungo la città. Questo abbatte il calore della città, ci fa vivere meglio, ci fa vivere tutti meglio. Sfruttare ad esempio le vie d'acqua, che non è solo il tema della riapertura, ormai un po' anche dei navigli, ma guardate che esistono delle possibilità di creare banalmente degli spazi molto belli all'interno dei parchi con l'acqua di prima falda, fare riemergere ad esempio degli specchi d'acqua nella città, anche in aree centrali, è una cosa che si può assolutamente fare, anche con più semplicità rispetto a quello che si crede. Il Parco Verga mi sembra che esattamente sia. Guardate, esistono anche il Parco di Cascina Merlata. È semplice, guardate, l'ho scoperto, io faccio l'assistente sociale, ma l'ho scoperto non perché ho frequentato chissà quali luoghi di ricerca, ma semplicemente parlando con chi si occupa di sviluppo sostenibile. Ad esempio, esistono oggi dei sistemi dove gli impianti di raffrescamento fatti ad acqua, che pompano l'acqua, poi possono riemergere in esterno e non essere riemessi in falda, esattamente come viene fatto a Cascina Merlata, dove si è creato un parco con degli scorrimenti d'acqua. E poi l'altro tema sulla transizione ecologica su cui bisognerebbe andare, altri due temi e vado a concludere, sono: uno è quello della depavimentazione, cioè ci sono tanti luoghi della nostra città. C'è un luogo molto caro a Giulia nel nostro municipio, costruito di recente, che è Piazza Gino Valle, sull'area dell'ex Portello, dove è una enorme distesa di cemento, un'enorme distesa di cemento. Io credo che sia pazzesco aver fatto nell'anno di Cristo 2013, perché quello è stato concluso nel 2013, ipotizzare una piazza di quelle dimensioni senza un albero, senza un'aiuola, senza un filo d'erba, l'idea di depavimentare quel posto e costruire quattro grandi aiuole a prato centrali per abbattere il calore, questa è una cosa che va incontro a tutti. E questa cosa della depavimentazione è una cosa che si può declinare da piazza Gino Valle ai cortili delle case popolari. E vuol dire creare degli spazi più belli, più fruibili, più verdi per tutti. Quindi anche per uscire un po' di chi si occupa di transizione ecologica e il fighetto del centro. Non è così. Non è così. Io sono nato e cresciuto a Molino Dorino. Quando andavo al liceo, i miei compagni dicevano che io non abitavo alla periferia di Milano, ma alla periferia di Pero. Eppure mi occupo di queste cose e lo faccio con grande piacere. Il terzo tema, più importante di tutti, è il tema della mobilità. Milano ancora oggi entrano troppe auto, che ne dica il pediatra candidato sindaco, entrano troppe auto, sono in entrata ancora oggi, è calcolate che la statale del Sempione, che si immette poi su via Gallarate e quindi direttamente al centro di Milano, via Gallarate, diventa viale Certosa e diventa corso Sempione, rappresenta il 40% del traffico entrante nella città di Milano. Sono ancora troppi, bisogna tornare a ipotizzare una un grande piano di mobilità sostenibile. E nel libro Pasqui dice una cosa molto semplice: Milano ha fatto benissimo sulla costruzione delle due nuove linee della metropolitana, deve cominciare a pensare con il livello metropolitano, quindi non solo sulla città ma sull'area metropolitana, e quindi mettere in cantiere il nuovo passante ferroviario, un altro passante ferroviario che a quel punto toglierebbe qualsiasi alibi a chi abita nell'Interland di Milano a entrare in città. Oggi dal nord Milano in pochissimi prendono il mezzo privato, dal nord Milano prendono tutti il passante ferroviario, le linee suburbane. Bisogna fare in modo che la stessa comodità ce l'abbia anche chi viene dal sud di Milano. Quindi su quello è uno dei grandi temi che secondo me un tema immediato: le alberature, l'acqua, l'abbattimento delle temperature, la depavimentazione è un tema importante, molto grande, che è il tema della nuova linea suburbana. Grazie mille. Hai citato prima Corso Sempione, Giulia già lo sai, gliel'avevo anticipato. Volevo che tu ci raccontassi un pochino questo nuovo progetto di rifacimento di Corso Sempione, che tu ci raccontassi quali sono secondo te i punti di forza. Ok, allora, a parte che diciamo quello che ha detto Simone è nel programma prevalentemente, quindi a partire dalla piazza Gino Valle, che appunto a me è molto cara perché anch'io non capisco come abbiano fatto a dare parere favorevole su un progetto del genere, nel senso che ha un grande potenziale perché è una delle piazze più grandi che abbiamo e quindi si potrebbe fare di tutto, invece ci sono 45 gradi all'ombra che non c'è e quindi è impossibile viverci, però l'abbiamo inserita in programma, così come il tema delle pavimentazioni, soprattutto anche nei cortili delle case popolari. Per quanto riguarda invece il progetto di Corso Sempione, non è difficile capire perché abbiamo tenuto molto a questo progetto, lo ha raccontato bene Simone. Corso Sempione è un corso molto bello, dove era molto brutto vedere le macchine parcheggiate sotto gli alberi che impedivano anche il percorso ciclopedonale che è già tracciato. Quindi, diciamo, con una riduzione di parcheggi di cui siamo consapevoli, che però dal nostro punto di vista non rappresenta, non è un numero così elevato da giustificare la mancanza di un intervento su quel corso, abbiamo deciso di portare avanti la nostra idea, che passa anche dalla possibilità di dare alle persone che non vogliono utilizzare l'auto un percorso alternativo possibilmente sicuro. E questo purtroppo a Milano anche qui rispetto a tante altre capitali europee non è molto semplice. Io spesso mi muovo in bici e raramente incontro dalla periferia al centro dei percorsi ciclabili. E anche qui il centrodestra, come le poche proposte che ha fatto, io ne ho sentite un paio. Una riguarda il rilancio sul numero delle assunzioni dei vigili a Milano dopo la proposta del sindaco, e l'altra è l'eliminazione di tutte le piste ciclabili. Ecco, io penso che l'eliminazione delle piste ciclabili non faccia bene a nessuno di noi, e io che vado in bici faccio il bene ai polmoni anche del signore che invece la macchina non la molla per nulla. Quindi Corso Sempione va un po' in questa direzione. Ad esempio, adesso non so, mi dicevi che c'era la figlia del... Sì. Okay, no, scusami, non... Ok, va bene. Angelotti Bachelli, comitato per Corso Sempione. Esatto, certo. Comitato per Corso Sempione, che ha aiutato tantissimo nella realizzazione di questo progetto. Ecco, noi come municipio abbiamo sicuramente dei valori e delle idee che ci caratterizzano come centrosinistra. È evidente che non è che prendiamo iniziative singolarmente, quindi c'è sempre un confronto con i cittadini, e su Corso Sempione io credo, al di là degli intoppi iniziali, perché anche qui questione di appalti che hanno ritardato l'inizio dei cantieri, hanno previsto una parte in cui, che fosse gestita non da un'impresa, insomma questo inizio di lavori, però diciamo attendere quello che vedrete è la nostra impostazione di città, che è anche quello che però ci hanno chiesto i cittadini che quel corso lo abitano. Assolutamente, certo che siamo, che poi siamo noi. Simone, volevo farti sostanzialmente un'ultima domanda, così non andiamo troppo per le lunghe. Come Giulia prima ci parlava di scuole, io prima ho raccontato che ho 3 figli, quindi ovviamente per me il focus dei giovani è assolutamente centrale. Giovani, ovviamente non la fascia 06, non la fascia delle elementari, che insomma in qualche modo ha i suoi spazi, ma quella degli adolescenti. Tu dedichi alle nuove generazioni addirittura un capitolo. C'è stata una frase che mi ha molto, una riflessione che mi ha molto colpito. Tu dici che ai ragazzi bisogna dare degli spazi, ma che noi adulti dobbiamo supportarli e sopportarli nel fatto che loro se ne appropriano. Questo mi è sembrato un pensiero molto bello, perché ha dentro di sé il fatto che dobbiamo accettare che i ragazzi magari utilizzino quello spazio non nel modo in cui lo abbiamo immaginato noi. Anche qui, secondo te, cosa potremmo fare a livello cittadino per dare più spazio ai ragazzi e agli adolescenti? Ma intanto grazie. Sì, io sono proprio convinto di questa cosa, che purtroppo bisogna, cioè che la città su tante cose, se non per cambiare, deve anche lo spazio pubblico deve cambiare insieme alle generazioni della città, no? Io non, se c'è proprio una cosa che in politica e più in generale nella vita a me non piace, gli istinti nostalgici. Io non sono per nulla un nostalgico, cioè a me piace tantissimo la cultura della memoria, che non è nostalgia, no? Cioè la memoria è proprio il contrario della nostalgia, è prendere il valore di quello che c'è stato. E quindi io credo su questa cosa qua che, per rispondere alla tua domanda, la prima cosa è cercare e trovare gli strumenti per coinvolgere le nuove generazioni nello sviluppo della città. Io vi faccio questo esempio, che è un esempio, Giulia lo sa, noi abbiamo fatto una valanga di interventi in questi 10 anni, in questi 5 o anche ultimi 5 anni, come amministrazione, di recupero di aree gioco all'interno dei parchi, per l'infanzia, eccetera, ma non siamo mai riusciti, perché all'interno dell'amministrazione e quindi dell'appalto del verde non si è mai riusciti a inserire la costruzione di un'area per il parkour, che è la prima richiesta che attualmente abbiamo. Non è il basket, no, io avrei detto il basket. No. È il parkour. Qui abbiamo la San Pio Basket molto rappresentata. È di campi da basket, pochi, ma ce ne sono. Di campi da parkour, pochi, assolutamente pochi. ma di aree come? Minibus. Ce ne sono pochi, ma qualcuno esiste. Aree da parkour ce ne sono pochissime, così come lo skate park. Però lo skate park adesso lo skate si park farà. A Lampugnano ne abbiamo uno. Esatto. Poi se ne farà un altro e vi dirà Giulia dove. Quindi io credo che su questo ci sia bisogno davvero di trovare uno strumento, delle modalità per proprio per lo sviluppo della città, per ascoltare le nuove generazioni e fare quello che chiedono. Dico due ultime cose, così poi dopo sentiamo se qualcuno ha delle domande, degli interessi. Una cosa che credo fortemente, ma proprio tantissimo, è non voglio cercare di non essere offensivo, perché non lo sono, cioè non voglio esserlo, non è quello. Ultimamente, anche di recente, l'amministrazione è stata al centro di una polemica sul tema della movida nell'area di Porta Venezia, di Via Lecco. Io comprendo benissimo il tema dei residenti, della tutela del vivere bene qualsiasi spazio e che non può essere, cioè che si devono conciliare tutte le tendenze. Però non si può neanche pensare che lo sviluppo della città, se vogliamo una città veramente sostenibile, sia con i luoghi di aggregazione per i più giovani al di fuori degli spazi abitati, cioè lontano. Sarebbe un ragionamento veramente estremamente provinciale, adesso permettetemi. Cioè, se io voglio stare in un posto nella quiete, vado a vivere a Pessano con Bornago o vado a vivere a Siena o nella villetta nel Chianti, non vado a vivere a Porta Venezia o non vado a vivere al quartiere Isola. Perché non andrei a quel punto neanche a vivere a Berlino, no? Visto che noi vogliamo Milano come Berlino, se voglio stare in un posto dove alle 6 di sera c'è il silenzio e se apro la finestra al massimo ascolto il canto delle cicale, non vado a vivere a Porta Venezia. Questo vuol dire anche una città che accoglie le nuove generazioni e che le sa far vivere. Dagli dei posti dove una persona più giovane che vuole divertirsi, ma questo mi ci metto anch'io che sono un quarantenne, una sera alla settimana un quarantenne può uscire e magari quella persona che abita in prossimità di quel locale avrà una finestra a doppi vetri. Questo vuol dire non una città senza regole, fuori dal controllo, ma una città che sappia far vivere tutti e che sia davvero una comunità coesa e solidale. Chiudo con un tema che è quello della prossimità, che riguarda anche i giovani, è il tema dei quartieri, della centralità dei quartieri. Io nel libro io e Anita parliamo di un tema che secondo me i prossimi municipi, ma in generale in realtà più il comune questo dovrà fare, è un piano straordinario delle piccole opere. Milano in questi anni ha avuto tantissime grandi opere, ne ha avute tante, giuste, belle ed importanti, le nuove linee della metropolitana, l'esposizione universale, tantissime grandi opere. Milano i prossimi 5 anni secondo me deve puntare sulle piccole opere, con il costo di quanto era del parcheggio previsto sotto la Darsena dei tempi di Albertini o del tunnel di via Gattamelata, con quel costo lì, costo del tunnel di via Gattamelata, avremmo ricostruito 7 scuole. Io credo che le piccole opere pubbliche, con il costo di un tunnel, noi pensate quante pensiline alle fermate degli autobus potremmo mettere, quanti giardini pubblici potremmo rifare, quante campetti da basket, da mini basket potremmo mettere nei quartieri. Ad esempio, Milano ha 88 quartieri, e qua concludo, alle Olimpiadi nel 2026, un piano per fare negli 88 quartieri un piccolo ambito sportivo nuovo. Per piccolo ambito sportivo nuovo, sugli 88 quartieri intendo un campo da basket in un quartiere, un campetto da calcio in un altro quartiere, un'area attrezzata per il ping pong in un altro quartiere, piccole opere pubbliche, 88 piccole opere pubbliche sulla città. Questo qua potrebbe essere uno dei lasciti delle Olimpiadi, oltre il grande palazzetto dello sport e il villaggio sportivo di Porto di Mare. 88 piccole opere, ecco. E su questo magari il coinvolgimento delle nuove generazioni su come spendere questi soldi. Speriamo assolutamente. E direi che possiamo concludere, io vi ringrazio tantissimo. Tanti di voi mi hanno chiesto come aiutarmi per questa campagna elettorale, quindi la prima cosa sicuramente... la state già facendo, cioè siete qui con entusiasmo e questo già mi rende estremamente felice. Poi raccontate questo ciò di cui abbiamo parlato e potete anche dire votate Stefania Leone agli amici. Se mi volete invitare ad aperitivi, cene e pranzi con i vostri amici che vogliono conoscermi, io questo mese la mia famiglia lo sa che sono fuori tutti i giorni e ho intenzione di godermela e di divertirmi. E un'ultima informazione tecnica, si vota sulla scheda verde, si barra il simbolo della lista civica di Beppe Sala, si scrive Stefania Leone e poi per la preferenza di Leone? Sì, no, almeno ho sbagliato quello. No. Sì, Leone. Io di loro mi Leone. E poi per l'alternanza di genere bisogna scrivere anche il nome di un uomo. Io qui ne ho due del gruppo che Simone è coinvolto in questa un po' questa pazzia di questa campagna elettorale. Mi farebbe piacere che venissero qui, così ve li presento. Allora, sul municipio 8 Massimo Tarì, prego, e sul municipio 1 Tito Grai. Prego. Io sto imparando le cose, parte tecnica delle lezioni. Tito è il mio ticket del municipio 1, cioè noi siamo uomo e donna, ci presentiamo noi due. Invece Massimo ha un altro ticket, però visto che lui è qui e mi ha fatto questo regalo di venire, mi fa estremamente piacere se Leone Tari anche il municipio. Grazie. 8. Niente, con questo... Contano solo i cognomi. In questo mese contano solo i cognomi. I nomi ve li potete... Allora ditelo, io ho fatto il santino, sito Stefania Leone, ma voi dite no, basta Leone. No, basta Leone, esatto, perché magari si chiamava... C'è un Angelo Leone in un altro municipio, ma è stato... La cosa è, ricordatevi, la cosa più importante di tutti è che vi danno due schede. Esatto. La scheda verde è quella per i municipi, chi abita in municipio 8, Leone Tarì, chi abita in municipio 1... Leone, Tito, Grai. Ah, e Piero della Francesca è in municipio 8. Ah, sì, Piero della Francesca, abbiamo lo stradario, abbiamo tutto. Grazie a tutti.